giusto il trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma degusto. A letto non la metto con il busto, non la frusto, non fisso, l'abisso come custo, nello spazio come Houston. Non mi industrio nella fabbrica del lustro e degli eccessi, dove i colpi bassi sono ammessi, stressi annessi, concessi. Basta